3, 2, 1, via. Via. Buon anno. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, come sempre trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo, in pieno centro storico Montevarchino, ringraziando ancora una volta Stefano Neri che ci concede queste sale. Fumino, chi abbiamo stasera davanti a noi come ospite alla ricerca della montevarchinità? Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Stasera abbiamo un ospite che è un tecnico di una delle squadre del Montevarchi, ma ne parleremo in seguito. Adesso è arrivato il momento di ringraziare il nostro regista di stasera, che è un campione anche lui, ovvero Woody Allen. Quindi bando alle ciance, andiamo a presentare l'ospite di stasera, ovvero l'allenatore degli juniores del Montevarchi, Andrea Coppi. Buonasera. Buonasera Andrea, senti, ti chiedo più o meno di ripeterci quello che ci hai raccontato in sede di preparazione della puntata, cioè tu sei l'allenatore della juniores Montevarchi, però raccontaci un po' qual è stata la tua carriera da allenatore, anche prima da giocatore, se ho capito bene, perché hai giocato prima di arrivare appunto all'Aquila. Da giocatore sono partito praticamente da San Giovanni, poi sono fatto i giovanili della Rondinella, quando la Rondinella era in C1. Poi sono tornato a San Giovanni, ho fatto tutta la trafila a San Giovanni, da lì sono andato in eccellenza a Tegoleto, ho fatto l'eccellenza Girone Uni a San Giovanni, insomma, e poi dopo le categorie sono state diverse, da Terranova, da Bucine, dalla Chiantigiana, da insomma 6 o 7 anni di eccellenza a Tegoleto, fra eccellenza e promozione, poi San Giovanni. Era Bacchereccia, l'ultimo anno ho fatto allenatore giocatore in prima categoria. Poi sono andato in un gruppo a Capriglia di ragazzini giovanissimi, ho fatto quasi del sociale e sono rimasto molto contento di questo. Poi mi ha chiamato Giorgio Rosadini a Rignano, dovevo prendere gli allievi ma mi ha dato la juniores regionale. Lì abbiamo vinto il campionato di juniores regionale, abbiamo vinto il campionato toscano e abbiamo fatto la fase nazionale e poi siamo stati eliminati da Romagna Centro. Poi sono passato a San Giovanni a fare la juniores, ho dato le dimissioni per motivi personali, però il campionato eravamo primi in classifica, avevamo 8 punti di vantaggio, non pochissime partite alla fine, quindi un po' di merito me lo prendo anch'io. E poi dopo sono arrivato a Montevarchi, qui è 4 anni sono qui, ho fatto juniores provinciali, regionali, elite e adesso juniores nazionale, abbiamo vinto il girone degli juniores nazionali. E qual è l'approccio per un allenatore rispetto a una categoria, diciamo, ma più che una categoria, a una classe di età come quella che rientra dentro gli juniores? È un approccio da grandi, è un approccio da grandi perché la juniores sono ragazzi che sono in procinto di passare in prima squadra, 18 anni, infatti con il mister, con Athos, noi ci alleniamo praticamente all'infuori di un giorno il lunedì, ma poi ci alleniamo sempre quasi in concomitanza con loro allo stesso campo, quindi Athos quando ritiene opportuno viene, prende 2 o 3 ragazzi e questo è il lavoro che fa Montevarchi, giustamente, perché si lavora esclusivamente per cercare di formare anche i ragazzi per la prima squadra. Se poi si riesce a fare anche dei risultati come quest'anno, tanto meglio, ecco. Sei il primo ospite che nel suo fare all'interno del Montevarchi è l'allenatore di una squadra giovanile, anche se, come hai appena detto, gli juniores sostanzialmente sono quasi una via di mezzo, quasi una prima squadra, sono praticamente giovani uomini. Ma allenare dei ragazzi, al di là dell'aspetto tecnico, quindi di fargli capire determinati movimenti piuttosto che altri, gli schemi, insomma è tutto quello che fa parte della sfera tecnica, ma allenare dei ragazzi, convincere un 17enne che il sabato sera è preferibile, o il venerdì, insomma, quando giocano il sabato, è preferibile andarsene a letto alle 10 senza bersi nemmeno una birra, piuttosto che andare magari fuori con gli amici a ballare e fare le due, come magari un ragazzo di 17-18 anni sarebbe più portato a fare. Qui c'è un lavoro dietro, oppure i ragazzi a quell'età e quando giocano in certe squadre, in certe società, con un blasone, con una futuribilità presunta o veritiera che poi sia, ce l'hanno da sé, questa specie di responsabilità? Giocare noi juniores a Montevarchi, noi facciamo una cernita dei ragazzi per arrivare a formare una squadra, e questa, prima avete avuto Giorgio Rosatini che vi diceva che andava a vedere le partite, e lui va a vedere le partite, poi io vado a vedere le partite, quindi è un'altra, cioè io gioco il sabato, vado a vedere la domenica, la domenica giorno vado a vedere altre squadre di eccellenza o promozione. C'è una cernita su tutto il settore giovanile. Quando si arriva a formare una squadra di juniores, chi gioca nella juniores, chi gioca nell'allievi, sono tutti ragazzi scelti. Quindi quando sono dei ragazzi scelti e si parla con loro, devono sapere e devono entrare nell'ottica che vogliono provare a fare giocatori. Quindi si assumono le loro responsabilità per fare le persone corrette e serie verso una società. Perché se no si prende altri ragazzi, si prende altre vie per ottenere certi risultati, perché se si lavora con dei ragazzi, si fanno degli allenamenti e poi il ragazzo va il venerdì o il sabato in discoteca e subria, cioè non ci porta niente a noi. Quindi noi facciamo una scelta, il lavoro di allenatore non è solo allenare, ma è un lavoro molto scuro che c'è dietro e molto grosso. Vi posso dire che è un lavoro molto grosso dietro la figura dell'allenatore. Nella tua esperienza ci sono anche squadre di allievi, mi pare, forse anche più giovani? Giovanissimi. Giovanissimi, ecco. Per un aspetto, insomma, una curiosità più che altro, gestire ragazzi giovanissimi, quindi 13-14 anni, che magari, sì, hanno delle potenzialità, però sono ancora effettivamente dei bambini, bambini grandi, ma insomma dei bambini. Come si riesce a gestire i genitori di questi ragazzi? Perché mi immagino che ci siano dei genitori più invadenti, quelli meno invadenti, magari ci sono genitori addirittura assenti, che forse è lo stesso sbaglio dell'essere troppo invadente. Però come si fa a mettere un paletto? Bene, da qui in avanti ci pensa il mister, ci pensa la società, e poi a casa fate il vostro. Allora, questo è un tasto dolente, perché i genitori, purtroppo io sono genitore e devo dire che in molti casi sono la rovina dei giovani, dei ragazzi, perché io alleno e non mi sono mai, non mi è mai venuto in mente di non far giocare un ragazzo perché quel ragazzo mi rimane antipatico o che. Io alleno, cerco di allenare tutti alla stessa maniera, poi è normale, come tutte le cose, c'è il giocatore più bravo, quello meno bravo, e noi andiamo in base a quello. Ecco, quindi questa è una risposta da dare ai genitori. Non è che noi ce l'abbiamo con il proprio figlio se non gioca. Il figlio che non gioca è perché probabilmente in quel momento può avere più problemi rispetto a un altro. E quindi questa è una risposta che direi, però non è facile. Io direi sempre ai genitori, io ti parlo per esperienza mia, io parlo sempre con tutti a inizio anno, non prometto mai niente, cerco di essere corretto con loro. Se vogliono andare a giocare da altre parti, vanno a giocare da altre parti, non voglio discussioni, solamente quello ti posso dire, non si rimarrà mai a fine anno simpatici a tutti, perché è così, purtroppo è così. Nonostante la nostra onestà, tutto il nostro impegno ci mettiamo, io cerco di fare una squadra e mandare in campo una squadra che per me deve essere competitiva, perché sennò mi darei la zappa nei piedi, no? Quindi non tengo fuori un ragazzo perché mi fa piacere tenerlo fuori, è perché probabilmente per me merita di stare fuori. Quindi io il primo messaggio che passo ai genitori è quello di credere su una società, su un allenatore che noi cerchiamo di far crescere il proprio figlio. Poi c'è chi riesce a crescere in una certa maniera, c'è chi non ci riesce, però ecco, penso l'onestà di parlare all'inizio anno di come stanno le cose, quello è, io mi sono sempre comportato in quella maniera. E l'Aquila Montevarchi è una società che fa del settore giovanile comunque uno dei suoi fiori all'occhiello, ce l'ha detto Giorgio Rosatini nella puntata precedente, ce lo ha raccontato il presidente Angelo Livi. Questo podcast è comunque destinato non tanto a un etere locale, ma comunque al web, per cui lo può ascoltare chiunque, lo può ascoltare anche persone che non sono di Montevarchi. Quindi, visto che siamo in un periodo dell'anno dove ha senso iniziare anche a trarre delle conclusioni rispetto alla stagione percorsa, raccontaci quella che è stata la stagione della Juniores che ti hai condotto in quest'anno per l'Aquila. La stagione è stata una stagione, direi, fuori le aspettative, perché abbiamo vinto un campionato a 5 sabati prima che finisse il girone, quindi avevamo vinto tutte le partite, pareggiate una e persa una, quindi è stata siamo rimasti un po' tutti meravigliati. Sicuramente forse il girone non era un girone, era Marche, Umbria, Toscana, non era un girone forse, non lo so, dei più forti, quello vedremo ora quando inizieranno le finali, quello che andremo a trovare. Però ecco, penso una squadra con questi numeri, abbiamo trovato anche realtà come Vispesa, abbiamo trovato Recanati, abbiamo trovato Sansepolcro che negli ultimi anni ha vinto 3 scudetti a livello italiano, quindi pensa a questi ragazzi, dargli un merito se lo meritano. Poi dopo siamo sognatori, come ho detto, un altro emittente, andiamo a fare queste finali e visto che siamo sognatori sogniamo anche noi di provare, si è detto ragazzi ci siamo, proviamo, se ci riesce a portare uno scudetto forse siete i primi a portare uno scudetto a Montevarchi, quindi provateci, questo è il sogno penso di tutti. Quali sono le fasi adesso che distanziano la Juniores dal sogno scudetto, diciamo? Le fasi sono queste, siamo 11 squadre che hanno vinto i gironi in tutta Italia. Ora aspettiamo 5 squadre che dovranno fare i play-off, quindi 44 squadre, tutte quelle sono nei gironi seconde, terze, quarte e quinte, che faranno play-off, poi fanno dei raggruppamenti a 3, uscirà 5 squadre su 44. Appena abbiamo il quadro completo di queste 5 squadre e rimaniamo 16 squadre, iniziano gli ottavi di finale, ottavi quarti, e le semifinali e le finali verranno fatte in una struttura della federazione, pagato alla federazione. Le 4 squadre andranno, mi sembra sia Lido Maiore, per l'assegnazione dello scudetto. E comunque si tratta, a prescindere poi dal sogno scudetto e dalla conclusione, di una stagione di grande successo. Ma te come allenatore, al momento in cui questa stagione si concluderà, vittoriosa all'ultimo livello o meno, come ti approcci al prossimo anno? Il gruppo resterà più o meno lo stesso? Cambierà? Cioè, com'è che quando si giunge a un livello vincente in questa maniera, com'è che quando si conclude una stagione del genere poi si è in grado di ritornare indietro, di riguardarsi indietro e di ripartire l'anno dopo? Questa è una bella domanda. È una bella domanda perché io gli stimoli li trovo perché sto lavorando per una società che mi fa allenare. E questo non succede dappertutto, perché a me mi mettono a disposizione tutto quello che c'è da mettere a disposizione, da collaboratore a massaggiatore a preparatore a dirigenti, per me è quasi uno staff da prima squadra, quindi questo io devo dire grazie alla società. E poi il fatto di avere sempre il ricambio di ragazzi, perché a me mi sale i ragazzi degli allievi, quest'anno se io un altro anno sarò l'allenatore della Juniores mi rimarrà 4-5 giocatori della Juniores, ma poi dopo è un ciclo tutto nuovo, quindi riparto con loro, con nuove esperienze, nuove motivazioni, e la motivazione più grossa è quella di vedere qualche ragazza in prima squadra, perché io posso dire che insieme a me è passato Mannella, è passato il portiere Coppi, è passato Corsi, è passato, non mi vengono nemmeno in mente tutti, però insomma tutti i ragazzi che o bene o male ora stanno giocando, Mannella va bene è sempre lì, però stanno giocando fra eccellenza e promozione. Questa è una soddisfazione che mi porto dietro, ecco, la soddisfazione più grossa alla fine è quella di vedere questi ragazzi in campo. Alla fine allenare squadre di settore giovanile è un po' sì guidare i ragazzi da un punto di vista tecnico, ma è un po' fargli da fratello maggiore, un po' fargli da padre, insomma si va a toccare probabilmente tante altre sfere. Ma Andrea Coppi, se guarda al suo futuro, si vedrebbe pronto a lui stesso per il salto in una prima squadra, quindi abbandonare il ruolo di fratello maggiore per andare proprio a fare l'allenatore dei grandi, mettiamola così? Ma quello vediamo, ora fammi fare queste finali, poi ti rispondo successivamente. Un altro aspetto del calcio, mettendoci gli occhi sopra, sono appunto i giovani che, giocando nelle primavere oppure nel caso delle squadre di Serie D, quindi di Juniores nazionali, insomma, o come si chiama quella categoria che però comprende quella fascia d'età di ragazzi che giocano in una società, è molto difficile poi appunto vedere, ora prendiamo il calcio che conta, i ragazzi del Viareggio, i giovani dell'Atalanta piuttosto che dell'Inter o della Juventus, insomma di chi fa questo tipo di torneo, poi negli anni successivi è molto difficile vederli nelle prime squadre. Ci sarà probabilmente un discorso di calciatori che vengono acquistati, quindi che vengono magari da fuori piuttosto che privilegiare il settore giovanile, però ecco, ci sono anche altri motivi secondo te per cui molti pochi sono i ragazzi che ce la fanno davvero a sfondare? Questa effettivamente è una cosa che mi domando anch'io, perché sinceramente dalle primavere, intanto si va a vedere le primavere di Serie A o così, si trova sempre meno ragazzi italiani, ma è molti ragazzi stranieri, e qui secondo me è una lacuna enorme, perché se non si ricomincia a lavorare con i nostri giovani, parlavate prima con Giorgio, che il progetto è quello di incominciare a lavorare con i giovani nostri italiani, portarli su come fa un po' l'Atalanta e trovare una società e un allenatore che creda a un progetto del genere, perché poi si va a vedere l'Atalanta rischia di probabilmente di entrare in Europa League con giocatori che molti vengono dal settore giovanile oppure vengono da società italiane, hanno fatto settori giovanili lì, però è una società che ha creduto. Bisognerebbe che le società credessero un po' più nei giovani e si mettessero un po' più a rischio, perché so che comporre una squadra con molti giovani può essere rischioso, la piazza come in tutti i posti non può essere d'accordo, perché anche questo è un aspetto, si vuole sempre il campione, no? Ora si parla della realtà Montevarchi, però forse Montevarchi, se in prima squadra sale 5 ragazzi da juniores e non comprano il giocatore simbolo, è normale che il tifoso dice ma che squadra si è fatto quest'anno. Ci vuole, secondo me, bisogna cercare di amalgamare un po' il tutto, però bisogna credere nei giovani, e prima a credere nei giovani deve essere la società. Questo non è il fatto di Montevarchi, perché penso che sia una delle poche società a livello dilettanti, insomma nazionale o così, che ha inserito tantissimi giovani dentro. Pensare, io ora c'ho Tegli, c'ho Pugliese, c'è Mosti, c'è Giorgi, sono tutti ragazzi, Meledandri sta con noi, tra l'altro Meledandri, Fofi, Desideri, l'abbiamo visti giocare in finale l'anno scorso quando hanno vinto lo scudetto, sono tutti ragazzi, logicamente loro vengono da fuori, però insomma i vari Tegli, i vari Pugliese, i vari Giorgi, i vari Paolini, sono tutti ragazzi che sono nel giro della prima squadra, sono in prima squadra, Mosti, e quindi a Montevarchi gli si può dire poco, però a livello, come dicevi te, di primavera, Serie A e così, si vede sempre meno, perché secondo me non c'è una cultura, e forse oltre anche alla cultura anche a livello economico, perché si va sempre a ricercare dei giocatori che non si conosce nemmeno il nome di giocatore, perché costa veramente poco, mentre il giocatore italiano anche di una primavera bravo, che ci sono dietro tante squadre, e poi se vedete vanno a giocare in Inghilterra, costa 2, 3, 4 milioni di euro, e lì già una società dice ma io non posso investire su un giocatore di 17-18 anni. E quindi secondo me questo è un problema, ci vuole la società. Io ho fatto l'esempio dell'Atalanta, bisognerebbe che un po' tutti seguissero anche il filone lì. Anche perché secondo me a livello nazionale ci sono stati esempi simili in altri sport. Io ad esempio ho da sempre seguito la pallacanestro, mi ricordo ai tempi della famosa sentenza Bosman, arrivare stormi di giovani stranieri, soprattutto dell'est Europa, perché comunque avevano il passaporto come comunitari, riempire le squadre, la perdita dei giovani dai settori giovanili italiani costretti come massimo livello di carriera a giocare nell'allora A2 o Lega 2, non so adesso come si chiama, e la totale perdita di talenti ad alto livello, che ha poi causato un disinteresse e un abbassamento di valore nella Serie A di campionato e anche a livello di nazionale, degli insuccessi malgrado alcuni singoli che abbiano raggiunto alti livelli. Quindi già questo precedente nella pallacanestro dovrebbe far drizzare le antenne secondo me al mondo del calcio. Ma rimanendo a Montevarchi, te dicevi che sei arrivato qua 4 anni fa, quindi sei arrivato in un sistema in piena rifondazione, in piena rinascita. Da un punto di vista proprio emotivo, cioè quello che hai trovato appena arrivato qui, qual era il clima di entusiasmo rispetto a questo sistema nuovo che veniva come una nuova primavera dopo anni di inverno piuttosto freddo? Ho trovato delle persone, ve lo dicevo prima, io sono sangiovannese, ho giocato a San Giovanni, ho allenato a San Giovanni, sono nato a San Giovanni, però vi devo dire che la società dove è più anni che sono, perché 4 anni, perché ho trovato veramente delle persone serie, delle persone importanti, dove si dedicano totalmente al calcio, alla crescita della società, alla crescita dei ragazzi, perché voi dovete pensare che Montevarchi penso sia come società una delle prime in Toscana a livello di settore giovanile, perché ha tutti i campionati nelle massime categorie, da partire da giovanissime elite alle elite. Non so se voi seguite tutti il filone, però sono tutti in campionati i più importanti che c'è. Quindi ho trovato gente da Bignone, da Casucci, poi ora con Giorgio io ci avevo già lavorato, quindi sapevo che Giorgio ormai è una vita che si conosce, quindi so che persona è, che vede solo calcio, vive di calcio, per lui il calcio è vita. Però ho trovato tanta gente dietro che lavora, vi posso dire che non si vedono, ma sono persone che per il Montevarchi fanno veramente, ma veramente tanto. Quindi ho trovato grande entusiasmo e grande voglia di una crescita a livello societario, a livello di, insomma, di gruppi, a livello di squadre, a livello di tutto il sistema Montevarchi. Quando arrivasti appunto 4 anni fa a Montevarchi ad allenare i ragazzi degli allievi o dei giovani? Delle juniores provinciali. Degli juniores provinciali. Quali furono le richieste della società di allora appunto nei confronti dei ragazzi? Io sono arrivato a dicembre, perché quell'anno lì Picchioni è subentrato a Arcadio. Arcadio, esatto. Stavano facendo un buon campionato, però non venne vinto quell'anno lì. Siamo arrivati secondi o terzi. L'anno dopo invece abbiamo vinto. Ecco, quello che rimango in Montevarchi, quello che chiede la società ai ragazzi: non c'è mai stata una richiesta da parte della società a me o ai ragazzi. Ecco, bisogna vincere il campionato, bisogna uscire da questa categoria. Io so che a Montevarchi era nei provinciali, non riusciva a acquisire il campionato regionale, però non c'è mai stata questa forzatura di volere a tutti i costi provare. Hanno cercato di trovare persone, collaboratori, istruttori che potessero aiutare tutto il sistema per far sì che poi arrivassero risultati. Però ecco, non è mai stata una società che ha chiesto in particolare un risultato, una vittoria. È una cultura che è passata, a me me l'hanno tramandata già da Bignone, da Casucci, da Rosadini, di formazione. Formazione è la parola più importante, ma non solo a livello calcistico. No? Abbiamo avuto una risonanza l'anno scorso a Piombino, siamo andati in tutti i giornali perché a fine partita non c'erano secchi della spazzatura nello spogliatoio. Siamo andati fuori, abbiamo preso un secchio, abbiamo messo in mezzo, abbiamo pulito tutto lo spogliatoio e il giorno dopo, insomma in settimana, abbiamo avuto una risonanza su tutti i giornali nazionali, Facebook, che l'Aquila Montevarchi Juniores ha pulito uno spogliatoio prima di andare via. Ma questa è stata una cosa, è una cultura nostra, che non si può vedere una bottiglia in terra, perché in casa penso nessuno dopo aver bevuto metto una bottiglia in terra, e non è giusto. E questo fa parte di un percorso. Se un ragazzo capisce che quella cosa la deve fare, io penso capisca anche quando va in campo deve fare delle cose specifiche. Se noi si dà una cultura che lui deve non deve buttare la bottiglia in terra, non deve buttare un nastro in terra, non deve la panchina della sciapulita, quando va in campo sa che c'è delle esigenze al di fuori del calcio, quindi nel calcio si vuole ancora di più di quello che viene fatto fuori. Rispetto a quello che ci hai appena detto riguardo appunto a come ci si comporta e a quello che abbiamo detto in precedenza, che un allenatore a questi livelli, in queste categorie, è anche un fratello e anche altro. Siccome da bambini si sogna, magari io da piccolo sognavo Baggio perché andava di moda Baggio, e quindi i ragazzini arrivavano magari a giocare con la cresta come il Sharawi a 10 anni, poi però crescendo tutti questi sogni di gloria forse un po' si ridimensionano, ma forse invece ancora a 16-17 anni tanti ragazzi, guardando probabilmente le partite in televisione, guardando le varie letterine che accompagnano questo calciatore piuttosto che l'altro, hanno appunto in testa queste cose. Ma come fa l'allenatore, in questo caso, o lo staff, se è tutto lo staff che poi ci pensa, a ridimensionare un po' queste cose, a riportare, diciamo, fra virgolette, i ragazzi con i piedi per terra e a fargli comprendere effettivamente quello che stanno facendo e perché? Già quando si arriva, penso, a una juniores a Montevarchi, tutti sono 17 anni, sono consapevoli che le aspettative, è normale, si ridimensionano per arrivare a giocare in Serie A o così, penso ci siano altre età, anche se ho ricordanza di giocatori, ho letto di tantissimi giocatori che anche a 21, 22, 23 anni, facendo la gavetta, poi sono arrivati in Serie A. Io mi ricordo da Moscardelli a San Giovanni, quando era ancora un giocatore, poi arrivava a fare il giocatore importante anche. Quindi i sogni devono sempre esistere. Logicamente penso per loro il sogno sia quello di arrivare a giocare in prima squadra, e quello è un sogno secondo me importante e attuale, che l'hanno a portata di mano, perché loro sono dei potenziali giocatori di Serie D che tutte le domeniche l'allenatore della prima squadra può chiamare per andare a giocare. Quindi loro si devono preparare e devono sognare la Serie D, perché la Serie D, ragazzi, è un campionato importante e difficile, è un professionismo, non si parla di semiprofessionismo, questo è professionismo puro, perché se sapete gli allenamenti, doppie sedute, io penso giocare in Serie D è tanta roba per questi ragazzi. Io li devo cercare di stimolare per arrivare a giocare in Serie D. Il sogno è quello di arrivare a giocare in Serie D. Poi se dopo qualche ragazzo ha la fortuna, come oggi abbiamo fatto una partita contro la rappresentativa di Serie D, dei migliori giovani della Romagna, c'era Forlì, noi ce ne abbiamo due, Pugliese e Teglie giocano con loro, e come lo stimolate? Negli spogliatoi ho detto che al posto loro ci potevate essere voi, e oggi fateglielo vedere. Le ragazze hanno vinto, cioè nel senso, sono cose banali, hanno vinto contro una rappresentativa di ragazzi che giocano tutti già in Serie D, chi nel Romagna Centro, chi nel Forlì, chi nel Rimini, chi nel Montevarchi, Cetteglie e Pugliese. Però ecco, lo stimolo, ci deve essere sempre uno stimolo, lo stimolo che ho dato io oggi è quello di dire ci sono loro, però ci potevate essere voi, fategli vedere che potevate esserci voi al posto loro. Quelli sono stimoli importanti, e sognare sempre, quello mai smettere di sognare. Una domanda che facciamo spesso ai giocatori, agli ex giocatori, una domanda folcloristica, riguarda i rituali scaramantici che sono all'ordine del giorno nel mondo del calcio. Ora, te sei stato calciatore, sei allenatore di una juniores. Anzitutto, da allenatore, vedi nel tuo spogliatoio se alcuni dei tuoi giocatori fanno delle cose strane, scaramantiche, oppure no? E poi, te personalmente, hai dei rituali scaramantici anche in quanto allenatore prima delle partite importanti? Allora, ti devo dire che una volta ero molto più scaramantico. Scaramantico nel senso, ci si metteva la stessa tuta finché non veniva una sconfitta o quant'altro, cioè si lavava però nel senso non ci si cambiava mai. Nei ragazzi sì, nei ragazzi ce n'ho specialmente un paio che se disgraziatamente si va a fare riscaldamento il sabato e mi viene di cambiare una virgola, perché in quel momento lì vuoi anch'io la tensione, vuoi altre cose nel preparare la partita, cambia una virgola, no mister, prima si faceva estratto, perché non si è fatto questo, perché la scaramanzia di fare le stesse cose. Poi stanno noi vincendole tutte, abbiamo pareggiato una partita il girone d'andata e persa una a quattro giornate dalla fine a Recanati, quindi la scaramanzia lì sarà ancora di più, perché lì avevano preso un obiettivo, l'unica squadra in Italia a non avere mai perso a livello giovanile, quindi quello era uno stimolo che gli passavo tutti i sabati, perché ormai erano entrati come la squadra non abbiamo perso in Italia a livello di juniores nazionale, quindi erano tutti stimoli e anche, ecco, come si diceva, scaramanzie nel fare le cose, nel prepararsi, nell'uscire ultimo allo spogliatoio. C'è sempre uno che deve uscire ultimo, se c'è uno traccheggia va a fare un'altra cosa, ma lui deve uscire ultimo, e quindi queste sono le scaramanzie. Per quanto mi riguarda, te l'ho detto, una volta ero molto più scaramante, ora sinceramente molto meno, perché vivo il calcio forse con una mentalità diversa, una cultura diversa. Una volta c'erano più pressioni a livello di risultati, ora cerco di viverlo formando ragazzi, ecco, cerco di viverlo in una maniera diversa, cioè una maniera diversa che so quello che ho alle mani, so che sono tutti ragazzi scelti, e quindi è difficile che una società si possa sbagliare su, su determinate cose. Quindi il progetto parte da, non da agosto quando si incomincia la lavorazione, ma parte molto prima con dei ragazzi scelti e dei ragazzi importanti. E nella scelta dei ragazzi, ad esempio, fai anche tu il tuo ruolo, hai una voce in capitolo. Ad esempio, ci dicevi che Athos Rigucci, l'allenatore della prima squadra attuale, collabora con te, quindi viene, vi allenate insieme, sceglie dei ragazzi, magari li porta con sé la domenica. E te fai lo stesso con quelli delle categorie inferiori, perché poi alla fine c'è un'escalation, chi gioca oggi nei giovanissimi fra 3 anni giocherà nella juniores, a meno che non vada da qualche parte. Quindi ci sta che fra 3 anni tu te li ritrovi ancora, se sarai ancora in quel ruolo lì. Quindi anche tu fai parte di questo, diciamo, di questa squadra che sceglie appunto i ragazzi, oppure no, te li ritrovi più o meno all'ultimo anno? No, faccio proprio la scelta dei ragazzi, vado a vederli la domenica mattina, seguo sempre la squadra degli allievi e puntualmente ho degli allievi con me il sabato, le ultime partite specialmente. Dipende tantissimo dalla prima squadra, perché se la prima squadra sabato mi manda 2 giocatori invece di 4, io prendo 2 giocatori d'allievo oppure prendo 4 giocatori d'allievo, però so già chi prendere perché io li seguo tutte le domeniche mattine. Quando non seguo gli allievi la domenica mattina perché casomai sono a giocare Alto Pascio o sono lontano, seguo il 2003 dove c'è dei ragazzi interessanti. Quando non seguo quelli, seguo dei ragazzi che possono venire a giocare a Montevarchi di altre società, come l'anno scorso seguì dei ragazzi che tra l'altro sono con noi, dei ragazzi importanti che sono arrivati a Montevarchi, però è normale, bisogna vederli, non si può prendere i giocatori così. Bene, siamo addirittura d'arrivo di questa puntata. C'ho un'altra curiosità. Quando ora noi abbiamo in mente, che ne so, i vari mediatori, l'allenatore nel pallone, insomma queste cose qua del calcio, no? Quindi si va a vedere il giocatore in Brasile e poi il giocatore viene in Italia con noi. Ma quando si va a visionare un calciatore di 14 anni, poi come funziona? Come una società, un allenatore, un direttore sportivo, tecnico che sia, si relaziona con la società, con la famiglia, con il calciatore direttamente? Spiegaci un po' come funzionano questi passaggi. Quando si va a vedere questi ragazzi passa esclusivamente dalle società, perché non si può passare da famiglia, non si può passare da ragazzi, perché sarebbe una cosa scorretta da parte, insomma, di fare questo lavoro. Quindi si passa dalla società. Se poi ci sono ragazzi che ancora non sono vincolati a quella società ma hanno un annuale o così, allora lì a fine al 30 giugno così si può andare a parlare anche con il ragazzo. Poi la scelta di vedere un ragazzo, di capire se un ragazzo è, oggigiorno si guarda tecnicamente, però oggi si guarda tantissimo l'atleta, si guarda se c'ha gamba, se c'ha passo, se c'ha. E poi da lì, se c'è tecnica, si può capire c'è un ragazzo che può fare il giocatore. Però ecco, una volta si guardava solo e cambiava un po' il calcio, no? Baggio ce n'è uno, insomma, volevo dire. Però ecco, oggi si guarda tantissimo, anche le società professionistiche guardano tantissimo l'atleta e poi dall'atleta formano il giocatore. Logicamente giocano al calcio, non è che tecnicamente sono scarsi, sono giocatori chi più o meno, però sono giocatori che sanno giocare al calcio. Se poi ci si mette insieme che è anche un atleta, c'ha gamba, c'ha forza e tutto, tanto meglio. Arrivando alla conclusione, un'ultimissima domanda. In tutti questi anni di esperienza da allenatore, insomma, hai girato il Centro Italia, hai visto altre realtà, le hai incrociate. Ti è mai capitato di vedere qualcosa che ti ha fatto dire se avessi questo a Montevarchi mi farebbe comodo? Allora, per quanto riguarda il discorso pulmini, come si parlava prima, no, perché voglio dire, la juniores stanno, voglio dire, ci hanno fatto fare i giocatori della prima squadra, perché voglio dire, siamo andati nelle Marche quasi tutti i sabati, partendo la mattina con un pullman, mangiare fuori, quindi in massimo tipo da. Abbiamo trovato sicuramente delle strutture che, ecco, le invidio. sinceramente abbiamo trovato nelle Marche, abbiamo trovato delle strutture bellissime, non so se per il discorso terremoto hanno dovuto ricostruire o che, però abbiamo trovato delle strutture veramente importanti, sintetici, ultima generazione, spogliatoi. Prima si parlava di Mercatale, bellissimo ambiente a livello paesaggistico e tutto, però cioè nel senso spogliatoi, insomma ci sono delle mancanze, ecco. Nelle Marche, se mi mancasse qualcosa, mi manca un campo sintetico dove poter insegnare ai ragazzi tante cose, perché nel sintetico sinceramente, anche se il calcio è in erba, ma oggi c'è dei sintetici che sono misti, sono quasi dei campi, ci si allena in maniera a intensità massima sempre, e poi dopo se ti alleni a intensità massima, anche se vai a giocare nell'erba, l'intensità però durante la settimana l'hai presa, mentre in un campo dove il pallone non sai dove va a finire, non puoi mai dare intensità, il pallone è sempre fuori, non lo puoi rimettere dentro, batte male, non può fare delle esercitazioni, ecco, questo lo invidio, le strutture, i campi. Bene, siamo davvero arrivati al termine di questa puntata, grazie ad Andrea Coppi per essere stato ospite dei nostri microfoni di Radio Big World, con la speranza, come lui ci ha ribadito, che anche a Montevarchi prima o poi arriveranno delle strutture nuove che siano più consone alla crescita anche dei nostri giovani, quindi grazie Andrea. Grazie a voi. Ringrazio come sempre il mio compagno di viaggio alla ricerca della montevarchinità, Julian Carax. Grazie a te Fumino per la compagnia, grazie agli ascoltatori di Radio Big World, grazie ad Andrea, grazie anche, ultimo ma non per importanza, al nostro regista di stasera Woody Allen. Ci risentiamo la settimana prossima con Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Grazie ancora, ultimissimo ma non per importanza, al solito santo subito Stefano Neri, e ci concede questi spazi sempre da dire in apertura e in chiusura di puntata. Buonanotte a tutti. Provinciale, però io ho dato le dimissioni a 6-7 giornate alla fine, perché c'era un presidente, si chiamava che si è degnato di non quando si è vinto il campionato, veramente si era 12 punti di vantaggio sulla seconda, gli ho detto da qui in avanti li può allenare a te. E sai che Montevarchino di nascita? Io sono San Giovanni. Sei San Giovanni? No, vabbè. 'Sono proprio San Giovannese, Giovanni San Giovanni, però allena a Montevarchi, e ti devo dire che ho trovato una società che è importante, di persone serie, veramente. No, la domanda di che è se San Giovannese lavora a Montevarchi si tocca. Non venga a vedere i derby, perché anche il piacere.